troverai, se vuoi, tra deserti colorati di utopia. Ad infrangere il tempo, invertirne i minuti, o trasformare in reale ciò che credono fantasia. Da bianca quiete a rosso fuoco, loro non sanno che potremmo anche svegliarci. Cavalcare le onde che ci lanciano contro e farli perdenti del loro perfido e lurido gioco. E la luna sogna, poggiando la sua testa e muovendo i suoi occhi, disegna una tempesta. E la luna fuma su un fianco distesa, poi sgranchisce le sue ossa, inizia la discesa. Se vuoi ci troverai a riempire gli infiniti spazi vuoti. A scavare più a fondo sotto una pioggia incessante, con poche parole spezzar catene senza senso. Il vento sta bussando, loro farebbero bene a tenersi forte. O a chiudersi insieme in una bolla gigante, continuare a giocare, a far del male o far niente, tra la Via Lattea e l'universo. E la luna ride tra i cancelli spalancati, tra le piume che cadono, strappate ai tiranni. E la luna fuma davanti al buon vino, poi affila le sue unghie per il prossimo inchino. We'll be right back. Thank you.